24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta. Vogliamo lavorare assieme per il bene dell'Europa. Al termine del bilaterale ieri sera a Berlino, François Hollande e Angela Merkel hanno ribadito che Atene deve restare nell'area della moneta unica. La crisi dell'Eurozona, alla luce dell'impasse politica in Grecia, è stata al centro del primo faccia a faccia tra i leader dei due paesi pilastri dell'Unione Europea. Il neopresidente francese ha dichiarato che ai vertici di Bruxelles, come quello straordinario del prossimo 23 maggio, bisogna mettere tutto sul tavolo, compresi gli eurobond. Secondo me la Grecia rimarrà nell'euro, ha detto la cancelliera tedesca. Conosciamo le nostre responsabilità per l'Europa e troveremo una soluzione, ha aggiunto. La crescita non è solo una parola da pronunciare, ma da tradurre in fatti nella realtà, ha concluso François Hollande, che ieri ha dovuto rinviare l'incontro di Berlino dopo che un fulmine ha colpito l'aereo presidenziale diretto nella capitale tedesca, costringendo l'equipaggio a tornare a Parigi e a cambiare velivolo. In Grecia, intanto, i leader convocati d'urgenza dal presidente Papoulias hanno fallito per la terza e ultima volta. Ora non restano che nuove elezioni. Il socialista Venizelos attacca, si va alle urne per interessi politici, ma per le sinistre i responsabili sono loro, il primo partito, la Nea Democrazia e il PASOK. La campagna elettorale è già iniziata in Grecia. Fallite le trattative di formare un governo, Atene torna alle urne. Tre mandati esplorativi e 10 giorni di negoziati non sono stati sufficienti per trovare una nuova maggioranza. E sarà dunque il voto, forse il 17 giugno, a cercare di trovare una via d'uscita al dedalo dove si è infilato il paese, nella speranza che il nuovo Parlamento sia meno frammentato di quello uscito lo scorso 6 maggio. Un voto che si trasforma in un referendum sulla permanenza del paese nell'euro. Bruxelles spera che vincano i partiti pro-austerity, ma i sondaggi danno in vantaggio Syriza, la sinistra radicale che vuole restare nell'euro ma rinegoziare i patti. Alla fine forse aveva ragione l'ex premier socialista Giorgio Papandreou a proporre un referendum. I greci si sarebbero espressi, ma il governo in carica non sarebbe caduto e il paese si sarebbe risparmiato questo stato di incertezza. Vittorio D'Arolde, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Atene. Per quanto riguarda le voci sulla possibile uscita della Grecia dall'Eurozona, il presidente dell'Ecofin e primo ministro lussemburghese Jean-Claude Juncker chiarisce: il nostro fermo proposito, ha detto a Bruxelles durante la conferenza stampa conclusiva dell'Eurogruppo, è di mantenere la Grecia nell'euro e faremo di tutto perché sia così. Speriamo che la Grecia non esca dall'euro, gli ha fatto eco il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, che ha aggiunto: dobbiamo essere però tecnicamente preparati a questa evenienza, che sarebbe straordinariamente costosa e presenterebbe dei grandi rischi, ha detto appunto Christine Lagarde. Intanto, nuova giornata negativa per le borse europee. La Grecia torna alle urne e manda nuovamente in rosso i listini del vecchio continente, depressi dai titoli bancari. Vola anche lo spread BTP Bund a ridosso di 440 punti base. Così ieri Milano è stata la maglia nera europea, col FTSE MIB in rosso del 2,56%. Meglio hanno fatto Parigi, meno 0,6%, Francoforte, meno 0,8% e Londra, che perde 0,5%. A Piazza Affari, come detto, banche nella bufera, nonostante le trimestrali in crescita di UbiBank e Intesa San Paolo, che hanno ceduto rispettivamente il 5,4% e il 5,3%. Le peggiori sono comunque Popolare Emilia Romagna, meno 8,7%, e Montepaschi, meno 7,4%. Realizzi su A2A, meno 5,1%, mentre regge il lusso con Tod's, più 0,3%, Luxottica, meno 0,2%, e Ferragamo, meno 0,4%. Campari, più 1,8%, si conferma tra i titoli a prova di crisi. Nell'ultimo mese ha recuperato il 4,2%. Sul resto del listino balza Landi Renzo, più 10%, mentre si abbattono i realizzi dopo la trimestrale deludente su Irene, meno 12%. Ciò Condina da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore. La disoccupazione giovanile in Spagna e Grecia nei primi mesi del 2012 ha superato la soglia del 50%, lo riferisce l'OCSE in una nota emessa in occasione del vertice dei ministri del lavoro del G20. 51,1 e 51,2% rispettivamente. La disoccupazione giovanile in Spagna e Grecia nei primi mesi del 2012 è una bomba sociale con la miccia corta. I dati sono quelli dell'OCSE e sono contenuti in una nota emessa in occasione dei vertici dei ministri del lavoro del G20. Senza lavoro tra i 15 e i 24 anni sono milioni di giovani europei, mentre l'ultimo dato utile per l'Italia, quello del marzo 2012, dice disoccupazione a quota 35,9%, pari a 534.000 persone. Prendendo il dato del lavoro nel suo complesso, la disoccupazione media si attesta all'8,2%, ma questo vuol dire che sono 45 milioni senza lavoro nell'area OCSE. Molto diversa la situazione da paese a paese, dal 24,1 della Spagna al 21,7 della Grecia, al 9,8 dell'Italia e poi giù verso nord con la Germania al 5,6%, l'Olanda al 5%. Quanto basta, insomma, per alimentare anni di nuove migrazioni? Gigi Donelli, Radio 24. Sole 24 ore. L'Unione Europea, per la prima volta dall'inizio della missione navale Atalanta nel Corno d'Africa, ha attaccato le basi dei pirati sulla costa somala con un bombardamento aereo. Lo ha reso noto il comando militare, secondo il quale l'operazione è stata condotta d'accordo con il governo transitorio somalo in seguito alle decisioni del Consiglio Europeo del 23 marzo scorso e in linea con la risoluzione 1851 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Nessun somalo è stato ferito. Viviamo come se avessimo un altro pianeta a disposizione, è l'allarme lanciato dal WWF. Una popolazione sempre più numerosa e i consumi eccessivi stanno mettendo a rischio la Terra. La denuncia arriva dal WWF con il suo rapporto Living Planet 2012. La domanda di risorse naturali è diventata insostenibile e sta mettendo sotto pressione la biodiversità del pianeta. Un allarme lanciato a 5 settimane dal vertice di Rio. Viviamo come se avessimo un altro pianeta a nostra disposizione, ha detto il direttore generale di WWF International. Stiamo usando il 50% in più di risorse di quanto la Terra possa produrre in maniera sostenibile e se non cambiamo strada questo numero aumenterà velocemente, tanto che nel 2030 neanche due pianeti potrebbero essere sufficienti. Nella ricerca il WWF ha indicato il Qatar come il paese con una più forte impronta ecologica, seguito da Kuwait ed Emirati Arabi e per quanto riguarda l'Europa dalla Danimarca. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una storia di calcio e razzismo che arriva dall'Inghilterra. Un'inchiesta per razzismo, l'ennesima quest'anno nel calcio inglese, e stavolta protagonista è lui, Paolo Di Canio, ora manager dello Swindon Town, appena promosso in League One, la Serie C britannica. A denunciare di aver subito insulti razzisti dall'ex laziale è stato, in una lettera inviata alla Football Association, Jonathan Théouet, centrocampista francese di colore che ha militato per qualche mese tra i biancorossi. Théouet non era presente quando sarebbe stato insultato da Di Canio con una frase offensiva, ma alcuni compagni di squadra sarebbero pronti a testimoniare in suo favore. La Federcalcio inglese ha aperto un'inchiesta sulla vicenda rivelata dal Daily Mail. Si tratta dell'ennesimo caso di razzismo scoppiato quest'anno nel football d'oltremanica, dopo quelli che hanno coinvolto l'uruguaiano del Liverpool Suarez, 8 giornate di squalifica e 40.000 euro di multa per gli insulti a Evra del Manchester United, e John Terry, capitano del Chelsea, privato della fascia in nazionale per le presunte offese ad Anton Ferdinand del Queen's Park Rangers. Per lui il giudizio arriverà a luglio. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ha chiuso i battenti a Torino il Salone del Libro. Sentiamo un bilancio dell'evento che ha richiamato sotto la mole molti visitatori da tutta Europa. Se il Salone del Libro fosse la cartina al tornasole del mercato librario, gli editori potrebbero iniziare a sorridere. Con un inizio dell'anno che segna un meno 12%, le case editrici hanno bisogno di segnali positivi. Soddisfatte le grandi, da Mondadori al gruppo GEMS, che hanno venduto in media il 15% in più. Fra le medio piccole, Explodi Minimum Fax, che ha incassato il 50% in più rispetto all'anno scorso. Da notare però che molti visitatori, complessivamente aumentati del 5%, hanno acquistato un solo libro, segnale che il direttore editoriale del Salone, Ernesto Ferrero, interpreta così. Evidentemente ci sono meno soldi in circolazione, si sta attenti. Ecco, però il fatto che ci siano più scontrini, ecco, meglio tanti scontrini da un solo libro che un solo scontrino da 10 libri, perché significa che la base della lettura si è allargata. Questa mi sembra un'ottima notizia, poi bisogna imparare a scegliere. Messi di fronte ad una scelta, i visitatori del Salone hanno snobbato le case editrici medio-piccole, si sono concentrati sui titoli più noti, dal libro di Gramellini a quello di Del Piero, da Baricco a Henry De Luca. Bene anche le collane low cost come quella della Newton & Compton. Quanto agli incontri, 2000 persone per Ligabue, la coppia Saviano Fazio, ma anche per dibattiti sulla mafia dedicati ai 20 anni dalla morte di Falcone Borsellino. Grande folla pure per Caro Figlio, Fabio Volo ed Avenia. Ebook è stata la parola più pronunciata. Gli editori si sono lanciati in questo settore perché non si può fermare il progresso, ma temono la pirateria. Esistono già comunità in rete dove si possono scaricare libri elettronici, esattamente come avviene per i film. Il Salone del Libro chiude dunque i battenti. Ci si rivede a maggio dell'anno prossimo. Paese ospite, il Cile. Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino.